Salve, sono il saggio di Forlì, saggio chi sa di non sapere. Io lo so, ma non lo dico. La settimana scorsa sono andato a fare un giro alla Biennale, quella di Venezia, dall'arte, no? E allora di tutte le patacate che ho visto, non è che ve lo voglio dire, uno in particolare che mi ha fatto morire. C'era a un certo punto uno che gridava: "No picture please, no picture please, non fate le foto." Che poi no picture please significa non fate le foto in inglese. E davanti a un'opera che c'era una scultura di, non è una scultura, un manichino fuori di dimensione, oversized. C'era una donna, sarà stata alta 2,40 m con un vestito d'osso. Allora sono andato e gli ho chiesto: "Ma cos'è questa storia?" Dice: "Ah no, guarda, fa l'artista ha voluto che non scattassero le foto apposta." Ma dico io: "Scusa, chi è quest'artista?" "Charles Ray," ha detto. "Charles Ray," ha detto, "che non è il cantante, quello cieco, o cieco, insomma, almeno che faceva finta di essere cieco per fare compassione alla gente, che poi adesso è morto, almeno che non stia facendo finta anche quello, però voglio dire, se stesse facendo di far finta è morto adesso, nella bara è un pataca per davvero, ecco, quello è riuscito." Questo invece è il rovescio, Charles Ray, che voglio dire, magari anche lui tanto bene non ci vedeva che di fare un manichino 2,40 m, forse perché voleva che lo vedessero anche da lontano, non lo so. Però a dire, questa opera che adesso è così tanto sburona di non farla fotografare, voglio capire perché e per come. Allora quello lì che diceva "no picture please" mi ha detto: "Ah niente, che poi la gente veniva, facevano le pose strane e dopo facevano le foto goliardi." Che me lo sono immaginato anch'io, che se potevo mi ci mettevo dietro, come dire, groppare questa cristianona di 2,40 m, non so, fare il cagnolino sulla gamba, no? Quello lì che ti metti lì e fai, simuli il coito del cagnolino e poi fai la foto che la fai girare, che la fai vedere a tutti, i parenti, gli zii, i bambini, tutti quelli così. Lui magari avrà visto delle foto così su Facebook e ha detto: "Deep, io te la lascio quella roba, ma te non ci fai fare le foto a nessuno." Allora ma io ho detto: "Scusa, ma perché? Perché non ci hai fatto mettere un cartello? Niente foto, no picture please." Non sta sempre a ripetere te. E ho detto: "No, no, lui, Charles Ray, quello che ci vede benissimo da vicino, ha detto: no, non deve fotografare nessuno e non ci puoi mettere il cartello." Ah, ho capito io allora com'era la storia. Non è che questo qui voleva pigliare per il culo la Biennale di esporre una cristianona alto 2,40 m con un vestito d'osso? Che non vuol dire un cazzo, proprio niente, proprio niente. Non è che voleva pigliare per il culo la gente che viene lì di pagare i soldi alla Biennale per vedere la Cristianona. Ma mai dai, voleva pigliare per il culo te, che devi stare qua 8 ore al giorno a dire "no foto, no picture please." Allora dalla compassione mi sono fermato lì con lui, ho cominciato a dire "no picture please" anch'io. Ah, fate pazienza qui, voi.